Aveva a disposizione una villa di proprietà e una domestica a tempo pieno, un tenore di vita al di sopra del suo stipendio mensile di circa 1000 euro, un esempio lampante di evasione fiscale. Almeno questo pensava di aver accertato l'Agenzia delle Entrate di Bari, che ha invitato il presunto evasore a presentarsi. Ma il diretto interessato ha dimostrato che di nero, in questa storia, c'era solo la sua tonaca. Il proprietario della villa è infatti un parroco, Don Giorgio di Sant'Antonio Abate di Fasano, il quale, carte alla mano, ha dimostrato pochi giorni fa che il redditometro non è uno strumento per preti. In base al concordato, infatti, i sacerdoti non sono tenuti a dichiarare le offerte dei fedeli, ma il rapporto tra religiosi e fisco non è sempre così pacifico. Nel caso, ad esempio, degli immobili religiosi, dove l'ospitalità è offerta a pagamento, si devono pagare le tasse, lo ha stabilito la Cassazione il 9 novembre scorso, dando ragione al ricorso di un comune contro un monastero delle Orsoline, 85 posti letto con bagni privati sul Lago Maggiore. E cosa dire di quei frati che in un'abbazia di Arezzo, come ci ha segnalato una nostra ascoltatrice, esercitano come guide turistiche senza che su questo vengano pagate le tasse? Nell'abbazia in questione si fanno almeno 30 giri turistici al giorno ad almeno 50 euro a visita. In 8 mesi fanno 360.000 euro esentasse. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.